mi chiama volare io deggio a lei il cerco mio darei per consolar quel cor il cerco mio darei per consolar quel cor ma sappia le fin chi l'ama conosca le fin chi sono apprenda che anche in trono degli schiavi amor ma apprenda anche in trono anche in trono degli schiavi ma degli schiavi amor Quel pensiero la gita come canzo tu cor, con quel pensiero la gita come canzo tu cor, con quel pensiero la gita come canzo tu cor, come canto, come canto. Possente amor mi chiama volare io deggio a lei. Il certo mio darei per consolar quel cor il certo mio darei per consolar quel cor ma sappia il fin chi l'ama conosca il fin chi sono apprenda anche in trono degli schiavi amor ma apprenda canto in trono canto in trono degli schiavi ma degli schiavi amor col pensiero la gita come canto tu cor come canto come canto degli schiavi amor col pensiero la gita col pensiero la gita come canto tu cor come canto come canto sogno si avverasse un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di Menfi tutta e a te mia dolce Aida tornar di là oricinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto celeste Aida Cheers.

acquetati, o grido, grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice quest'ontallonero. O mio suor, o infamia, quasi quest'ontallonero, si lavero, o mio suor, o infamia, quasi quest'ontalavero. O mio rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il turpe sonno frangere il vermi malero. Per poco in cielo acquetati, o grido, grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice quest'ontallonero. O mio suor, o infamia, quasi quest'ontallonero, si lavero. O mio rossor, o infamia, o si quest'onta, si quest'onta lamero, quest'onta, quest'onta lamero. Amor, merce,

verrà, purché sul tuo bel viso venga a brillare il riso, gli stenti suoi le pene per noi scorderà. Oh, gli stenti suoi le pene per noi scorderà. Suprema, un altro ed è mio padre, un altro e questo è il re, lei che adoro m'ha rapita, la sposa a me promessa.

resta la scure. O quando fine avrà 98.6 兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏安德烈·博切利演唱的意大利民歌。

Domani verrai, se domani verrai.

cose ti ricordano, anche i silenzi ti raccontano, e mi manchi tu. Dopodiché ricominciare è difficile, impossibile, direi. Dopodiché niente di niente mi dà quell'allegria che eri tu. Non si avveri mai. Tu ti dai conto